GR Sport. Buongiorno da Carlo Genta. La notte della 29esima giornata di Serie A, quella del derby di Roma, cambia i distacchi in testa alla classifica. La Lazio vince 3-2 il derby della capitale. L'Inter pareggia a Genova. Tra le inseguitrici pareggia anche la Juventus ad Empoli, mentre perdono la Fiorentina a Napoli e il Milan in casa con la Sampdoria. Ma partiamo dal racconto del derby di Roma, deciso nel recupero da un gol di Velon Berami. Le speranze di rincorsa all'Inter della Roma rischiano di naufragare definitivamente nella stracittadina contro la Lazio. Apre le marcature Taddei alla mezz'ora del primo tempo grazie a una carambola fortunosa in area biancoceleste su inopinato rinvio di Berami. Allo scadere della prima frazione, Pandev trova il pareggio sugli sviluppi di un cross passo da sinistra smanacciato da Doni sui piedi del Macedone. Nel secondo tempo la Lazio trova all'11esimo il vantaggio su calcio di rigore generosamente concesso dall'arbitro per un contatto in area tra Juan e Bianchi. Realizza Rocchi. Pronta risposta dei giallorossi 5 minuti dopo, lancio lungo, balla smorzata da Vucinic per Totti al limite dell'area, tocco smarcante del capitano giallorosso per Totta che segna il 2-2. Con mezz'ora a disposizione per provare a vincere la partita, la Roma ha il torto di non premere a sufficienza sull'acceleratore, nonostante gli innesti in corsa di Giulì e Mancini. La Lazio si difende ordinatamente e trova il jolly con Berami, grande protagonista nel bene e nel male della gara. Al 46esimo della ripresa, Pandev crossa da sinistra sul secondo palo. Mauri la rimette dentro in acrobazia per il tap-in vincente dell'esterno biancoceleste. Alla vittoria in zona Cesarini si unisce la soddisfazione per il colpo gobbo ai danni dei cugini e delle loro ambizioni tricolori. Guglielmo Timpano, GR24. Il Sole 24 Ore, Roma. Inter in sofferenza a Genova, in vantaggio con Suazo dopo 11 minuti, in 10 dopo 40 con l'espulsione di Pelé, raggiunta nel finale da Borriello. Sentiamo Roberto Mancini. Noi abbiamo iniziato molto bene, non abbiamo rischiato niente proprio nel primo tempo, e poi l'espulsione ha condizionato totalmente tutta la partita, se no sarebbe stata un'altra gara. Quindi questo è stato ancora... per un'altra volta il problema maggiore. Colpa di Pelé, perché ha reagito, comunque ha preso una gomitata e vabbè, lì ha sbagliato perché ha reagito, poi l'altro è un fallo, ma durante la partita poi ci sono stati altri 4-5 falli e l'arbitro non ha mai ammonito. Diciamo che è molto sfortunato Rocchi con noi, molto. Dunque in classifica Inter 68, Roma 61, Juventus 55, Fiorentina 50, Milan 46. A un punto dai rossoneri c'è ora la Sampdoria, ma sale forte anche l'Udinese che vince 1-0 a Torino ed è ora a 44. Per il Milan, sconfitto 2-1 dalla Samp, corsa alla Champions, tutta da rifare. Carlo Ancelotti. Non va bene perché abbiamo fatto un passo falso inaspettato per certi versi e quindi la rincorsa si fa più dura. Abbiamo provato a rimediare nel secondo tempo, siamo andati vicino al pareggio, però è stato troppo penalizzante l'inizio partita con due disattenzioni troppo evidenti. C'è poi la soddisfazione di Mazzarri che vede insieme alla sua Sampdoria addirittura la zona Champions. Si sta facendo anche un buon calcio, oggi poi il secondo tempo le energie giocando ogni due giorni o tre, insomma siamo un po' calati contro queste grandi squadre, poi si è sofferto, però il primo tempo è stato veramente, al di là del vantaggio numerico, proprio era un bel vedere, via. Era la squadra che giocava bene. Davanti avevamo un Milan che è rigenerato, avevamo visto cos'era stato capace di fare a Roma, aveva ritrovato tutti i propri campioni, insomma grande soddisfazione. In coda sono pareggi in Catania-Siena e Livorno-Reggina, pesantissimi successi del Parma 2-1 sul Palermo e del Cagliari 1-0 all'Atalanta. In classifica dietro al Torino con 31 punti c'è il Parma a 29, Catania e Livorno 28, Empoli e Reggina 26, Cagliari 24 punti. Infine flash dagli altri sport con un bronzo e tante speranze per l'Italia agli europei di nuoto di Eindhoven. Il bronzo arriva dai tuffi, trampolino da un metro, e lo conquista Christopher Sacchin. Le speranze sono quelle dei nuotatori con Brembilla e Rosolino in finale, con ottimi tempi nei 200 stile libero e Boggiatto nei 200 misti. Infine nel basket, ultima giornata delle top 16 di Eurolega, la Montepaschi Siena batte 80-67 l'Efes Pilsen Istanbul e vince il suo girone. Un gruppo dal quale esce la grande sorpresa. Il Panathinaikos Atene, campione in carica, perde a Belgrado con il Partizan e viene eliminato. È tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.